in primo piano. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli, buon 7 di gennaio, buon venerdì, quindi magari anche buon weekend. E oggi i giornali sono molto ricchi, ci sono anche alcuni settimanali in edicola, poi li vedremo se c'è tempo, ma iniziamo come al solito a guardare i titoli principali delle prime pagine dei giornali italiani. Oggi succede una cosa che io non ricordo da tantissimo tempo, è praticamente 6, 7, forse anche di più quotidiani hanno esattamente lo stesso titolo. E il titolo è questo. Cominciamo dal Corriere della Sera. Tremonti, due punti, la crisi non è finita. L'inizio dell'articolo, che poi continua a pagina 10 con approfondimenti per addirittura 5 pagine sul Corriere, è questo. Da Parigi parole dure del ministro dell'economia Giulio Tremonti: la crisi non è finita, è come un videogame, compare un mostro, lo combatti e vinci, poi ti rilassi, ma a questo punto spunta un altro mostro che si rivela più forte del primo. Tremonti poi ha citato Winston Churchill, il ormai mitico primo ministro inglese, che era primo ministro quando durante la Seconda Guerra Mondiale, e indica la strada del rilancio europeo, ma aggiunge: con le banche salvati anche gli speculatori. E sulle affermazioni del super ministro dell'economia, la politica italiana si divide. In prima pagina sul Corriere della Sera c'è poi una fotonotizia: rossoneri campioni d'inverno. Ieri infatti c'è stato il primo turno di campionato dopo la pausa per le festività natalizie, ha vinto il Milan, Cassano spinge il Milan. Ricorderete ieri il titolo della Gazzetta con il virgolettato di Allegri, l'allenatore del Milan, che diceva per Antonio Cassano il Milan è l'ultima possibilità. Ieri Cassano ha fatto questo assist a Strasser, che poi ha firmato il gol dell'1-0 del Milan sul Catania. L'altra riga di titolo è rinascita dell'Inter, ha vinto anche l'Inter ha vinto ieri a San Siro contro il Napoli. Era una partita importante perché era il debutto di Leonardo sulla panchina dell'Inter. E così vediamo subito la prima pagina della Gazzetta dello Sport, anche perché così interrompiamo appunto quella serie di titoli uguali che vi dicevo, che poi riprenderemo. Da una parte Fanta Milan, Cassano a Cagliari, scusate ho detto Catania, invece era Cagliari. A Cagliari entra nel finale, serve un assist a Strasser che segna d'un soffio in fuorigioco. Rossoneri campioni d'inverno. Dall'altra parte la prima pagina della Gazzetta è proprio divisa in due: Inter Leoni, Leonardo comincia bene e c'è un virgolettato, abbiamo un'anima. Poi ci sono due pagine all'interno, curioso soprattutto, vi segnalo 5 piccole foto. La Gazzetta ha immortalato Leonardo nei momenti più importanti della partita, tra cui naturalmente i 3 gol. Passiamo alla Repubblica, identico titolo del Corriere: Tremonti, due punti, la crisi non è finita. La Repubblica aggiunge un elemento nel sommario, che è il tesoro USA parla di pericolo default, e c'è un'analisi di Federico Rampini, corrispondente della Repubblica dagli Stati Uniti, che dice default, cioè bancarotta. Mai in passato un segretario al tesoro degli Stati Uniti, questo è Timothy Geithner, aveva osato evocare questo rischio per l'economia più ricca del pianeta, la sua. Vi segnalo poi, magari dopo ne leggiamo un pezzo, richiamata in prima pagina un'inchiesta di Ettore Livini, Così si salva il cibo che sta per scadere, e appunto ci racconta come è possibile salvare quella enorme quantità di cibo. Si parla di cibo che potrebbe essere un pranzo o una cena per 636.000 persone, cibo che in realtà appunto spesso viene sprecato. Poi vi segnalo sempre dalla prima pagina della Repubblica un ritorno sulla questione che abbiamo visto ieri, con il premier che ha accusato i comunisti in Kashmir, come D'Alema, che è stato fotografato a St. Moritz con una sciarpa, questa sciarpa sarebbe di Kashmir, Berlusconi ha preso questo spunto per criticare appunto la sinistra, che una volta era la sinistra al caviale, oggi la sinistra al Kashmir. C'è un articolo di Filippo Ceccarelli, Il metodo Signorini, la politica rotocalco. La Stampa, vi dicevo, titoli identici: Tremonti, due punti, la crisi non è finita. Anche qui c'è nel sommario il richiamo alle parole di Geithner, il segretario al tesoro degli Stati Uniti, che ha detto da Parigi, ha detto alzare il limite del debito o si rischia il crack appunto degli Stati Uniti. C'è un approfondimento di Stefano Lepri e il titolo è Messaggio al governo. Naturalmente quello di Tremonti sarebbe, secondo Lepri, un messaggio al governo italiano: che non sia ancora finita la grande crisi economica apertasi il 9 agosto del 2007. Forse non tutti lo ricordano, quella data viene citata da Stefano Lepri perché è la data del fallimento della banca d'affari Lehman Brothers, che viene un po' identificata da tutti come l'inizio appunto di questa grande crisi finanziaria ed economica che ha poi colpito tutto il pianeta. Dice, scrive ancora Stefano Lepri, se al nostro ministro dell'economia pare necessario ripeterlo con forza è probabilmente perché nel governo altri vorrebbero fargli mutare rotta. Basti vedere il tono ottimistico dei commenti congiunturali che Renato Brunetta diffonde sempre più spesso. Sempre dalla prima pagina della Stampa vi segnalo un articolo di Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa. Italia 150, via alla festa schizofrenica. Nel sovrano disinteresse del popolo sovrano e della maggioranza più che assoluta dei suoi rappresentanti, comincia stamattina la sarabanda delle celebrazioni per i 150 anni dell'Italia unita. Comincia a Reggio Emilia con l'omaggio al tricolore da parte del Presidente della Repubblica, uno dei pochi a crederci davvero e non solo per dovere d'ufficio. E continua poi a pagina 27 l'articolo di Gramellini, vi leggo l'ultima parte. Non è onesto affermare che rispetto al centenario del 1961, che erano i 100 anni dell'unità, lo spirito di patria si sia affievolito. Sono i politici, non i cittadini, ad aver rimosso la ricorrenza. Infatti nel dibattito elezioni a marzo sì, elezioni a marzo no, che li appassiona da mesi, nessuno dei leader ha neanche minimamente pensato che sovrapporre i veleni di una campagna elettorale alle celebrazioni del 150enario sarebbe come invitare una banda di bulli muniti di pennello e vernice alla festa di compleanno della scuola. Nordisti e sudisti che insultano l'Italia sulle piazze d'Italia, mentre il capo dello Stato scopre targhe commemorative e omaggia bandiere risorgimentali. Fra le tante schizofrenie di questo beneamato paese, che almeno questa ci venga risparmiata. La lettura delle prime pagine dei giornali, abbiamo visto Corriere, Repubblica e Stampa hanno esattamente lo stesso titolo, e anche il Sole 24 Ore. Questo titolo è Tremonti, due punti, la crisi non è finita. Lo ha detto ieri a Parigi il nostro ministro dell'economia. Il Sole 24 Ore, rispetto agli altri giornali, fin dalla prima pagina aggiunge un dettaglio che è quello che riguarda la Cina. Pechino rifinanzia Madrid e prepara la convertibilità dello yuan. Sul fronte delle valute si muove la Cina. Hong Kong sta trasformando lo yuan o Minbi in una vera valuta internazionale. Molti osservatori vedono in questo un obiettivo di lungo termine, affiancare il dollaro nel ruolo di valuta riserva mondiale. E ieri l'euro, per la prima volta da un mese, è scivolato sotto quota 1,30 sul dollaro. Pechino intanto sta acquistando quote consistenti del debito spagnolo, proseguendo nel sostegno finanziario ai paesi dell'eurozona in difficoltà. E sulla Cina, visto che per spezzare un po' questa catena di titoli tutti uguali, vi segnalo il titolo del Manifesto, che sappiamo ha questi titoli sempre un po' fuori dal coro, altrettanto vale per le foto o le illustrazioni che mette in prima pagina. Il titolo è Game Over, il riferimento naturalmente è al parallelo che Giulio Tremonti ha fatto tra la crisi e i videogame. Nella foto si vedono due persone nude, una signorina cinese e un uomo presumibilmente occidentale. E probabilmente il significato è che l'uomo è nudo, come forse tutto l'Occidente, e la signorina cinese è pronta per essere invece vestita. Il riferimento alla Cina è chiaro anche all'interno del manifesto, pagina 2 e 3, dedicati alla crisi. Ci sono le notizie che abbiamo visto anche sugli altri, nel titolo del Sole 24 Ore. Qui anche c'è un approfondimento: i cinesi comprano pure la Spagna, aiuto economico e affari per Zapatero. L'importanza della Cina come nuovo player mondiale è anche data dal titolo dell'International Herald Tribune, che si autodefinisce la Global Edition del New York Times. Il titolo è Nell'abbracciare l'Europa la Cina aiuta se stessa. Il fatto è naturalmente che la Cina, così facendo, secondo l'International Herald Tribune, cioè aiutando questa volta direttamente Madrid o comunque magari anche finalmente aggiustando questo cambio dello yuan, aiuta se stessa perché ha tantissimi ormai investimenti in tutta l'Europa, quindi è tutto interesse della Cina di mantenere l'Europa sana dal punto di vista economico. Sulla Cina, visto che siamo in tema Cina, vi segnalo dalle pagine interne dell'Avvenire un articolo molto interessante. Pechino: assistere i genitori anziani sarà obbligatorio. Questo per dire che insomma la Cina sicuramente sicuramente sarà l'economia che corre di più o l'economia più importante, da fabbrica del mondo a supermercato del mondo, ora anche mercato di sbocco, però ha i suoi problemi. Uno è questo, naturalmente, che poi è un problema comune a tantissime economie, quella della popolazione che invecchia. Metà della popolazione, scrive all'Avvenire, è over 60 e vive da sola. Secondo gli analisti è anche colpa della legge sul figlio unico. Ricordate la famosa legge che imponeva alle coppie di avere solo un figlio per non aumentare eccessivamente il numero degli abitanti. Anche Il Giorno titola "La crisi non è finita", questa volta manca la parola Tremonti, ma il titolo è tra virgolette, quindi anche Il Giorno su questa scia. Idem per il Messaggero, virgolettato, "La crisi non è finita". C'è un commento di Oscar Giannino: "Col videogame fa ancora paura". Però vi segnalo dalla prima pagina del Messaggero un intervento di Pierluigi Bersani, il segretario del PD. Forse ricorderete, martedì era stato Walter Veltroni a fare un intervento sulla Stampa, sempre sul futuro sostanzialmente del PD o dei partiti che vogliono dirsi progressisti. Scrive Pierluigi Bersani, vi leggo solo le prime righe: "Caro direttore, davanti all'Italia c'è una prospettiva più fragile, più difficile e incerta rispetto a quella di paesi con i quali siamo stati fin qui in compagnia. Da anni ormai ci stiamo allontanando dalle aree più forti d'Europa e stiamo convergendo su quelle più deboli. Senza una forte correzione, il nuovo decennio aggraverà sensibilmente questo arretramento". Quindi comunque sempre in tema crisi. Il Secolo XIX, Tremonti, due punti, "La crisi non è finita", quindi anche Il Secolo XIX, stesso titolo, è effettivamente il tema della crisi economica, visto che poi l'anno sta iniziando, appunto, che non si pensi che con il 2010 è stata archiviata, forse è questo il messaggio da cogliere. L'Unità, "Chi divide l'Italia", quindi l'Unità invece, come faceva Massimo Gramellini sulla prima pagina della Stampa, ricorda che oggi partono le celebrazioni per i 150 anni del nostro paese. L'Unità ha la foto di una grandissima bandiera tricolore in prima pagina, un bambino che ci corre davanti, e tre i focus dell'Unità: "Chi difende lo Stato unitario", Napolitano a Reggio Emilia, "è un presidio nell'era globale, non c'è futuro senza coscienza del passato", "Chi vuole distruggerlo", "Tanti comuni leghisti boicottano la festa", ricorda l'Unità, "Chi lo rende più ingiusto", Tremonti ripete che la crisi è ancora gravissima, ma i sacrifici sono sempre a senso unico, secondo l'Unità. Il Giornale titola "Tutti gli incubi di Tremonti", quindi un po' diverso finalmente il titolo di un quotidiano. E d'altro canto devo anche dire, perché sembra che insomma io non approvi questa scelta di avere lo stesso titolo, è anche un titolo estremamente giornalistico e molto comodo anche per noi, è corto, è breve, è efficace, quindi insomma mi sembra anche naturale che poi alla fine lo abbiano scelto tutte le prime pagine dei quotidiani. Dalla prima pagina del Giornale però vi segnalo anche una approfondimento sulla busta paga di Marchionne, grande foto di Marchionne. Marcello Zacchè e Giuseppe De Bellis ci raccontano due punti di vista diversi su questo busta paga di Marchionne, che sarebbe di 3 milioni di euro all'anno, 100 con i bonus. Dice Marcello Zacchè: "Immorale guadagnare 6.400 volte il tuo operaio", e dall'altra parte, quindi due opinioni diverse, "no, chi crea ricchezza può essere super ricco". Dal Fatto Quotidiano, anche qui titolo diverso, il 2011, "Fuga da PD e PDL", questo è il titolo della prima pagina del Fatto Quotidiano. Un sondaggio riservato in mano a Pierluigi Bersani svela che i due partiti maggiori spopolano fra gli anziani, ma non tra i lavoratori. I giovani andrebbero verso Fini, Vendola e Di Pietro. Liberazione titola, tanto appunto per citare i giornali che hanno titoli diversi, Liberazione, "Sbaraccopoli". C'è una foto molto divertente, sembra quasi un fotomontaggio, è un cavallo che traina una carrozza, ma sulla carrozza c'è in realtà una specie di carcassa di una vecchissima Fiat 500. Perché "Sbaraccopoli"? Il premier serbo Vojislav Kostunica fa il lavoro sporco per conto della Fiat, scarica 1600 lavoratori della Zastava di Kragujevac, a suo tempo parcheggiati in una bad company modello Alitalia, per offrire all'azienda torinese uno stabilimento ripulito dalla zavorra dell'occupazione eccedentaria, così scrive Liberazione. Da Liberazione vi segnalo un articolo e una notizia che poi troviamo anche nella prima pagina di Finanza e Mercati del Sole 24 Ore, il dorso appunto finanziario del Sole 24 Ore. La notizia è questa: Golfo del Messico, la colpa del disastro è di British Petroleum. Come ricorderete, il 20 aprile del 2010 prese fuoco quella piattaforma petrolifera della British Petroleum nel Golfo del Messico, che si chiamava Deepwater Horizon, che ha poi causato uno dei disastri ecologici più gravi della storia. Le inchieste vanno avanti e scrive anche Finanza e Mercati Daniela Roveda, corrispondente da Los Angeles del Sole 24 Ore. BP è colpevole ma non troppo, quindi vedete che già fin dal titolo si può dare un taglio un po' diverso alla notizia. In realtà, appunto, il titolo più corretto è probabilmente quello del Sole 24 Ore, perché la commissione d'inchiesta ha stabilito questo, che British Petroleum è colpevole della catastrofe del Golfo del Messico ma non è l'unica responsabile. Questa conclusione, ci racconta appunto Daniela Roveda sul Sole 24 Ore, è il primo risultato della commissione d'inchiesta voluta dal Congresso da Washington. Il Riformista titola indifendibile sarebbe il ministro La Russa, che viene definito dal Riformista un ministro ciarliero, perché La Russa si smentisce sulla morte della Pino Miotto, accusa i generali di avergli fornito una versione falsa, di essere abituati all'omertà. La verità è che lo scontro con gli alti gradi va avanti da mesi. Sapete questa vicenda dell'alpino ucciso? In un primo momento si era Matteo Miotto ucciso in Afghanistan, si era parlato di un cecchino, poi in realtà il ministro La Russa è andato in Afghanistan a fare visita ai nostri militari e ha detto che in realtà era morto in uno scontro. Ancora non è chiaro quale sia più che la versione ufficiale, perché sono entrambe versioni ufficiali, la verità. Vi segnalo la prima pagina dell'Avvenire, che titola Chiese sotto assedio. In Egitto sappiamo c'è stato quel gravissimo attentato a Capodanno ad Alessandria d'Egitto, sono morti 21 cristiani. Ieri era il Natale copto e l'Avvenire spiega: in Egitto, città presidiate per le cerimonie del Natale dei copti, alcuni imam preparano una fatwa contro chi compie violenze sui cristiani. Dall'Avvenire, vi segnalo, come faccio ogni giorno, la rubrica Mattutino di Gianfranco Ravasi. Oggi si chiama L'Homo Zappiens. Sapete, Gianfranco Ravasi parte da una citazione e poi la commenta. La citazione è questa: una conferenza internazionale, una riunione per decidere quando si terrà la prossima riunione. Un comitato, 12 persone che fanno il lavoro di una. Scrive Gianfranco Ravasi: sono due rasoiate queste definizioni sarcastiche, desunte rispettivamente dall'ironico Left-Handed Dictionary, curato dall'americano Levinson, e dal divertente terzo libro di Murphy sugli assurdi della società evoluta, collezionati da un altro americano, Arthur Bloch. Il tema è evidentemente comune alle due citazioni. Si moltiplicano senza fine comitati, consigli, riunioni, assemblee, incontri, anzi meeting, conferenze e così via, per produrre una valanga di carta e chiacchiere e solo qualche raro e scarno risultato. Dall'ironia scherzosa sulla burocrazia si passa così a una cosa più seria. La degenerazione del linguaggio conduce alla volgarità nei comportamenti, alla brutalità nei rapporti, alla stessa incomunicabilità. Come è stato detto, dall'Homo sapiens siamo passati all'Homo zappiens, che salta beccando sui canali televisivi, diventa sempre più superficiale nel dire e nel fare, temendo e rifuggendo da ogni approfondimento e dalla riflessione. Pratichiamo allora, un po' tutti, l'ascesi nel dire e nel fare, prosciugando le labbra dalle parole stupide e inutili e le mani dalle opere vane. Questo ci consiglia Gianfranco Ravasi. Vi segnalo dal Foglio un articolo, un editoriale, e sulla questione che abbiamo ritoccato all'inizio. Ho citato l'articolo di Filippo Ceccarelli sulla Repubblica, sui comunisti al Kashmir. E scrive il Foglio: fosse solo la sciarpa il problema. Indossare maglie di Kashmir torna a essere un difetto insopportabile per chi professa idee di sinistra. Era stata la sinistra a prendersela anni fa con i calzini di Fausto Bertinotti, ora è Silvio Berlusconi a prendersela con l'eccessiva eleganza dei comunisti. È un po' lungo, vi leggo poi l'ultima parte, però appunto magari comprate il Foglio a proposito di imparare a riflettere. È un giornale di opinione, quindi sono tutti commenti, poi se ne può magari comprare uno che ha un'opinione diversa e così magari farsi un'opinione. E le ultime righe, quindi: per esprimere la rappresentanza di un blocco sociale non è necessario adottarne l'abbigliamento, bisogna offrire una visione nella quale la coesione e la funzione nazionale di quel blocco superino le sue contraddizioni e articolazioni. Quando questa visione manca, la lotta politica si esprime in una sterile contrapposizione tra dirigenti e viene meno la funzione specifica di una classe dirigente. Il Kashmir si vede molto solo quando sotto c'è proprio poco. A proposito sempre del Kashmir, un altro commento di Natalia Aspesi a pagina 31 della Repubblica: un tempo si diceva indignati che in carceri mafiosi pasteggiavano a caviale e champagne, adesso la pessima dieta con un pessimo caviale con conseguenti gonfiori di stomaco è attribuita ai comunisti, che sarebbe bello scovarne in Italia almeno uno come reperto di tempi migliori senza doversi recare a Mosca dall'amico Putin. Quanto al Kashmir, simbolo della decadenza capital comunista, nei mercati lo si trova a 50 euro a capo, provenienza Cina comunista e capitalista. E poi anche qui in realtà è un po' più lungo il commento di Natalia Aspesi, anche questo divertente, il solito sorriso amaro se vogliamo. Oggi monopolizzati dalle dichiarazioni di Tremonti ieri a Parigi, che riassunte in questo titolo forte, Tremonti due punti, la crisi non è finita, che è il titolo della maggior parte dei giornali. Passiamo alle pagine interne, cominciamo dal Corriere che ha un'intervista a George Clooney, l'attore naturalmente. George Clooney è in Sudan in questo momento, come molte star hollywoodiane abbraccia delle cause umanitarie e devo dire lo fa fino in fondo con grande convinzione, quindi è andato in Sudan, c'è una sua fotografia mentre è con una troupe televisiva su un fiume. George Clooney in Sudan, mi definisco, c'è un virgolettato, un paparazzo antigenocidi per sorvegliare le milizie. George Clooney infatti sponsorizza un sistema di satelliti spia che secondo lui possono essere un deterrente, un aiuto alla corte internazionale. Sapete che il Sudan è sull'orlo secondo molti di una guerra civile e religiosa tra il nord del paese e il sud del paese, che hanno anche due maggioranze religiose diverse. Il sud è abitato da una maggioranza di cristiani e animisti, nel nord la popolazione è araba e musulmana. Ma c'è anche la questione del petrolio, perché il sud del Sudan è ricco di giacimenti di petrolio, dalla regione proviene il 70% della produzione del paese. Sulla prima pagina dell'Avvenire abbiamo letto il commento di Gianfranco Ravasi sull'Homo Zappiens, che naturalmente zapping è quel neologismo creato negli Stati Uniti per indicare il cambiamento veloce, quasi nevrotico dei canali usando il telecomando. Dalla pagina 26 e 27 del Corriere della Sera vi segnalo questo curioso articolo: telecomando addio, per cambiare canale bastano le parole. Sappiamo che a Las Vegas, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, è in corso questa grande fiera dell'elettronica che si chiama CES, e una delle novità presentate è appunto questa del poter cambiare i televisori, che ci permettono di cambiare canale solo con la voce. C'è un divertente commento di Aldo Grasso, il critico televisivo del Corriere della Sera: era il segno del potere familiare il telecomando, ora combatteremo con i gesti. A chi darà retta il nuovo sistema? Forse a chi urlerà più forte come nei talk show. Ipotesi terrificante, speriamo che non succeda. Dalla Repubblica vi segnalo un approfondimento di due pagine su una notizia che è arrivata ieri e che però appunto è qui forse è spiegata meglio che su altri giornali. Il titolo è "Mucca pazza, muore una donna, è la seconda vittima in Italia". C'è uno schema che riassume come attacca il prione, questo il responsabile di questa malattia, e poi c'è anche uno schemino che riassume le tappe di questa malattia, perché è tanti anni ormai che la BSE, così la viene, è questo il termine tecnico della sindrome della mucca pazza, viene incombe, diciamo così, sull'Occidente dal 1986, quando appunto venne diagnosticato la causa. C'è un'intervista a Maurizio Pocchiari, neurologo dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice l'incubazione è molto lunga ma non si rischia il contagio. Vi citavo all'inizio, perché è richiamata sulla prima pagina della Repubblica, l'inchiesta di Ettore Livini sul cibo che viene sprecato ogni giorno in Italia. Yogurt, verdure e bistecche, così un miliardo all'anno va in fumo col cibo scaduto. Troppi sprechi, ma il riciclo può diventare un business. Due pagine intere, molto, molto interessante. E poi, sempre dalla Repubblica, una pagina invece questa volta di Enrico Franceschini, corrispondente da Londra della Repubblica, che ci racconta l'odissea della tartaruga che nuota 6 mesi fino al Brasile. Sappiamo che ci sono degli animali che fanno queste migrazioni incredibili, ma anche i salmoni stessi, no? Che risalgono i fiumi e nuotano al contrario, se vogliamo. Questa volta la protagonista della storia che ci racconta Franceschini è appunto la tartaruga, che fa questa migrazione di 8.000 chilometri. Perché? Per accoppiarsi. Viene compiuta una decina di volte nella vita questa migrazione monster dalle tartarughe che affrontano l'oceano. Alcuni scienziati inglesi hanno monitorato questo incredibile viaggio. Il pericolo maggiore, naturalmente, sono le reti dei pescatori. Ora vi segnalo invece dalla Stampa, abbiamo parlato tanto di Cina all'inizio, c'è un dossier della Stampa: nella corsa alle invenzioni ora vince l'Asia, dalla birra agli aerei, dai cellulari alle medicine, i paesi emergenti non imitano più, brevettano in proprio. Questo forse è la grande paura che ha anche l'Occidente, che appunto la Cina, come dicevamo all'inizio, non sia soltanto la fabbrica del mondo, il supermarket del mondo, il mercato di sbocco, ma adesso produca anche creativi. E c'è un'intervista al rettore del Politecnico di Torino, Profumo, che dice: i loro laureati all'estero adesso tornano a casa, un investimento che comincia a dare frutti. Si parla spesso appunto di, si paragonano spesso gli investimenti in ricerca nell'università a investimenti nel futuro di un paese. Questo forse è proprio la dimostrazione, quello che sta succedendo in Cina è la dimostrazione di questo teorema. Dal Sole 24 Ore vi segnalo sullo stesso tema una pagina intera: invenzioni globali targate BRIC. BRIC, quindi non solo Cina, BRIC sta per Brasile, Russia, India, Cina, il blocco dei paesi emergenti. Buone pratiche e buoni prodotti nati dagli emergenti entrano nei sistemi economici mondiali. Dal Sole 24 Ore vi segnalo un altro approfondimento: il futuro del lingotto. L'Italia a bordo di una 500, dai cinegiornali ai film d'autore. La Fiat ha segnato le svolte del paese, il nostro paese. E c'è una carrellata fatta da Francesco Gaeta, i magnifici 7 titoli sulla fabbrica dell'auto, 7 libri appunto per capire meglio questa questione della Fiat, che è di massima attualità in questi giorni. Lunedì scorso, lo ricordiamo, ha debuttato il doppio titolo, il titolo stoppiato della Fiat, un titolo solo per il settore auto, un altro solo per tutto il resto, e poi il 13 e il 14, ne abbiamo parlato tanto ieri, il referendum sul futuro di Mirafiori. A Mirafiori i lavoratori voteranno appunto sul piano per il futuro della loro fabbrica. Vi segnalo da Libero, restiamo a termini un pochino più leggeri, una cosa che a me è piaciuta moltissimo: l'oroscopo bestiale. Che cosa riservano le stelle a cani e gatti? Le previsioni del 2001. Di che segno sei? Ci sono tutti gli oroscopi per i cani e per i gatti. Non so, vi leggo il primo: un cane ariete, lunatico. Se i padroni sono cancro o bilancia, potrebbero influenzarsi con i rispettivi sbalzi di umore. Per il gatto, sempre ariete, più aggressivo del solito. Quando lo rimproverate, non guardate. Datelo dritto negli occhi. A proposito di oroscopi, torniamo un attimo sulla prima pagina del Messaggero, perché io non lo so, io non credo tanto negli oroscopi, però forse come tutti poi li vado a leggere. Allora, il Messaggero oggi, ma come si fa a non leggerlo? Perché dice: rivoluzione in arrivo per il segno del Toro. Oggi il Toro è, secondo Branco, insomma, è la sua giornata. Buongiorno Toro, ve lo leggo perché se fossi un toro sarei molto contenta. Non sono un toro, sono una bilancia. Marte splendido, rosso sgargiante come una nuova Ferrari, viaggia velocissimo alla passionalità, avvenimenti incredibili nella vita professionale, tutti sotto il segno del rivoluzionario Urano. Insomma, che il Toro approfitti di queste previsioni. Ma torniamo a argomenti, insomma, un po' meno leggeri. La prima pagina di Libero, che non abbiamo citato prima, ha un titolo diverso: Fini ha preso 9 milioni, c'è un'inchiesta di Franco Bechis, il presidente della Camera è il politico in attività che ha incassato più soldi pubblici. Il terzo polo domina la classifica perché Casini è sesto con 8,5, Rutelli nono con 6,8. Ma la prima pagina di Libero ve la segnalo anche per un altro motivo. Abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi del nuovo film di Clint Eastwood, Hereafter, perché è uscito il 5 gennaio e ci sono state recensioni entusiastiche. Oggi ce ne sono altre due su Libero. Una è di Renato Farina: un'opera religiosa rende viva la morte, perché questo film di Clint Eastwood ha per contenuto la morte e le domande che la riguardano, eppure si esce dalla sala più lievi e più contenti, si chiede Renato Farina. L'articolo prosegue a pagina 30, e Giampiero Mughini, d'altra canto, dice: solo un capolavoro, ci svela chi siamo. Non credo affatto che Hereafter sia un film dove a far da baricentro sia la questione dell'aldilà, se c'è o non c'è e com'è. No, è semplicemente, dalla prima all'ultima immagine, un film di Clint Eastwood, quindi un capolavoro. Ma visto che tra l'altro tra Libero e il Giornale c'è molta competizione, mettiamola così, e oggi il Giornale va decisamente conto corrente, perché non soltanto appunto non è d'accordo con Libero, non è d'accordo con la maggior parte dei giornali, perché secondo Il giornale e il film non è, il Hereafter non è affatto un capolavoro. Scrive il giornale: peccato, anche il duro Clint cade nella melassa New Age. È l'opinione di Luca Doninelli, che firma una lunghissima recensione e scrive: in Hereafter Eastwood fa i conti con la morte, bersaglio che aveva già inquadrato in Gran Torino, l'ultimo, secondo me, bellissimo film di Clint Eastwood, ma questa volta si arrende al conformismo. E vi leggo le ultime righe. All'uscita del cinema, scrive Doninelli, ho incontrato un famoso giornalista molto bravo ma per nulla controcorrente, che tutto entusiasta, salutandomi, ripete: grande film, grande film. Se il vecchio Clint potesse sentirlo, dico tra me, si renderebbe conto di aver commesso un errore. Secondo me tutte queste cose non fanno che alimentare la curiosità, e possiamo tutti questo weekend, magari se abbiamo un po' di tempo, andare a vedere il film di Clint Eastwood. Tornando ancora alle pagine interne di un altro quotidiano, questa volta Avvenire, ha un'inchiesta sui lavoratori in nero. Sarebbero 600.000 quelli scoperti. Un rapporto della UIL, del sindacato UIL, in 5 anni scovati oltre 1,2 milioni di irregolari. Abbiamo ancora poco tempo, però mi piaceva segnalarvi, perché oggi è venerdì, ci sono in edicola anche i settimanali. L'Espresso, scortati d'Italia, questa è la copertina che richiama l'inchiesta interna. Dalle più alte cariche dello Stato a magistrati, sindaci, sindacalisti, un esercito di uomini auto blindate vigila sulla loro sicurezza. Ecco quanto ci costa e chi ne ha davvero bisogno. E poi dalle pagine interne vi segnalo anche un'inchiesta di Agnese Codignola, che è una giornalista scientifica bravissima. Perché ingrassiamo? Certo, mangiamo troppo e male, non facciamo abbastanza movimento, ma entrano in gioco anche altre cause: geni, fattori patogeni, virus e batteri. Panorama, lavoro offresi, tutti i mestieri che garantiscono il posto, questo è il titolo di copertina. E infine il venerdì, America, così hai perso la nuova frontiera. Mentre arriva in Italia il grinta western dei fratelli Cohen, il protagonista Matt Damon ci parla di politica, attaccando Obama, le banche e dicendo: avete infranto un sogno. Era l'ultima segnalazione, perché il tempo è finito, sempre troppo poco. Era il mio ultimo giorno, vi auguro, è stato un piacere fare la rassegna stampa Radio 24, auguro a tutti un buon anno, ringrazio il mio angelo custode in regia per tutta questa settimana, Peter Bescapè, e poi vi lascio con un'ultima raccomandazione, come sempre, di leggere i giornali, ci sono tantissime cose anche oggi, cibo per la mente, come dice Oliver Sacks. Buona giornata a tutti.